viene tra portante uscire. No, entra, no, entra. Non credete, no, vuoi uscire. Entra, no, entra, no. Tra questi brilli non sapete qui. No. Se è ferita, nasconti, nasconti. Avete la porta, vuoi avanti. Resta, no. Non ho seguito la traccia, deve essere qui dove. Oh, avete seccato con questo vostro rovis. E là non c'è. Ma l'ho ferito, per Dio ne son certo, non può essere fuggito, non può essere che qua. Thank you. mano. Forse avrò graffiato. No, non c'è graffio. Guarda. Il sangue ancora. È là, è là. Pronto, taglia, te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Tu l'adori. Sì, è un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Vede, vedi, ti vinco! Presto giù, per pietà! Che cosa? Dove? Che devo darvi? No! Alla bottiglia! Vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto giù, mi lo chiedo per pietà! Ah!

Andiamo. Yeah. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。